Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. You know, for us the for us, per noi, okay, I my English is absolutely incredible and beautiful, but the real reason is the terror of my spokesman is exactly the answer will be in English. We are destroyed now. So Filippo, I will speak in Italian. Are you happy? Yes. Insomma, non so, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, se voi ci avete capito qualcosa, ma quello che si può evincere da quello che sta dicendo Renzi, il segretario generale della NATO, è che il fulgore del suo inglese ha raggiunto, diciamo, apici inarrivabili. Ecco, giusto questo possiamo dire. Iniziamo così la serata di questa sera, una puntata molto ricca di cui nella quale parleremo della partita che sta creando tensione, anche se sembra che vada meno peggio di quanto si pensava. Quella di ritorno di Europa League, dove la Roma deve giocare a Rotterdam contro il Feyenoord. Sapete, vi ricordate bene qualche giorno fa che cosa hanno combinato gli hooligans del Feyenoord nel cuore di Roma. E poi parleremo anche della rivelata identità del boia dell'ISIS, si può chiamare così a piena ragione, visto che è quello che in tutti i primi video dell'ISIS gozzava con assoluta indifferenza vari ostaggi uno dopo l'altro, giornalisti, operatori umanitari, eccetera. Parleremo della sua identità e cercheremo di capire anche cosa sta succedendo in Siria, visto che sono stati rapiti oltre 300 cristiani, diversi sono stati uccisi oggi, si parla di una possibile mattanza domani, insomma. Tanto, diciamo così, per stare allegri ma stare dentro la realtà. E poi, per stare invece in casa nostra, di nuovo Salvini, che dopo aver attaccato Tosi nei giorni scorsi, era stato anche Tosi ospite qui di Effetto Notte, oggi invece gela, come si dice, Berlusconi. Giorni fa, vi ricordate, avevano parlato di una possibile alleanza, Berlusconi era contento di questo, l'aveva già ufficializzata, invece oggi dice no, nessuna alleanza, siamo troppo diversi. E sentiremo più tardi, tra poco, anzi, Toti, consigliere politico di Forza Italia, che cosa replica, una replica piuttosto dura a Salvini, gli ricorda che per 20 anni, insomma, hanno anche governato insieme. Insomma, se volete, ci sono sempre i vostri canali privilegiati per intervenire qui Effetto Notte, qui in diretta o attraverso i messaggi al 349-238-6666 oppure attraverso la pagina di Effetto Notte, la pagina Facebook, che è sempre lì per voi, vedo già dei messaggi. Lo spunto potrebbe essere questo: è vincente la strategia di Salvini di prendere le distanze da Forza Italia e dire noi siamo troppo diversi, non c'è possibilità di alleanze, poi in vista delle regionali che ci saranno in primavera, secondo voi è una buona mossa questa di Salvini e della Lega? Intanto, come sempre all'inizio, andiamo a capire quali sono le notizie più importanti della giornata. Siria, sono 350 i cristiani rapiti dall'ISIS e sono 15 le vittime, dice il vescovo. Il ministro degli esteri Gentiloni parla di un inaccettabile genocidio. Intanto svelata l'identità di Jihadi John, il boia è di Londra. Rai Way, Renzi assicura, il 51% resta pubblico, ma si tratta di un'operazione di mercato. Guerra sulle alleanze del centrodestra, Salvini chiude a Berlusconi e Toti di Forza Italia, cui Effetto Notte, parla di mossa autolesionista. Segreto bancario addio, dopo la Svizzera l'Italia firma l'accordo anche con il Liechtenstein. L'omicidio di Marco Biagi, Scaiola e De Gennaro indagati per la scorta revocata. Notizia arrivata poco fa, Brega Massone, il chirurgo degli orrori, condannato definitivamente a 15 anni e mezzo. Musica, 91 anni, è morto Giacomo Rondinelli. La voce di Malafemmina. Calcio, tensione a Rotterdam per la partita di ritorno Feyenoord-Roma. Decine di tifosi romanisti schedati denunciano maltrattamenti. E partiamo quindi dalle nuove mattanze dell'ISIS, del sedicente califfato, autoproclamato Stato Islamico, come lo vogliamo chiamare, in Siria, dove sono stati rapiti dagli integralisti islamici più di 300 cristiani. Al momento sarebbero 15 quelli uccisi nella regione nordorientale siriana di Azaka, lo riferisce l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani. Il ministro degli esteri italiano Gentiloni ha commentato dicendo è inaccettabile il genocidio che sta avvenendo in Siria. Tra l'altro oggi è stata svelata l'identità del boia dell'ISIS, quello, vi dicevo, dei primi video, e ne parleremo più tardi. Adesso invece parliamo di Rai, dopo l'offerta di Mediaset ieri per acquistare le torri trasmittenti di Rai Way, è tornato sull'argomento il Presidente del Consiglio Renzi. Il governo ha messo delle regole sul railway che non intende modificare, e sono le regole che riguardano il 51%. Punto, per me la discussione è finita qui. Il 51% non si tocca, ribadisce Matteo Renzi al termine della conferenza stampa con il segretario generale della NATO. Un paletto insuperabile contenuto in un decreto varato a settembre, aveva già ricordato il governo ieri in una nota, ma Renzi vuole sgombrare il campo da ogni dubbio e spiega che la politica non c'entra, è solo un'operazione di mercato. Le polemiche però non si placano. Se il PD si schiera con il governo, Selli invece mette in guardia dal rischio che le reti di trasmissione del servizio pubblico vadano in mano al suo principale competitor. Critiche anche dal Movimento 5 Stelle, da sempre contrario alla privatizzazione di Railway, mentre secondo Forza Italia si vuole solo impedire a Berlusconi di fare l'imprenditore. Intanto via libera del CDR Rai al piano di riordino dei TG, che dovrebbe portare a risparmi fino a 100 milioni di euro. Dopo 35 anni finalmente cade un muro invisibile ma storico, dice il direttore generale della RAI Gubitosi. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. La politica, col segretario della Lega Salvini, come vi anticipavo, che chiude la porta ad alleanze con Forza Italia in vista delle elezioni regionali di primavera. Qui effetto notte, tra poco la dura replica di Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia. Un incontro costruttivo, oltre che cordiale, è invece stato quello di Grillo e Casaleggio col Presidente della Repubblica Mattarella, almeno così commenta il blog del Movimento 5 Stelle, aggiungendo: al Presidente della Repubblica è stato lasciato un breve documento riassuntivo delle nostre proposte. E siamo al segreto bancario. Dopo la Svizzera, anche il Liechtenstein lo rimuove nei rapporti con l'Italia, lo spiega Salvatore Padula del Sole 24 Ore. La lotta ai paradisi fiscali ha fatto oggi un nuovo passo avanti con la firma dell'accordo sulla fine del segreto bancario e sullo scambio di dati tra l'Italia e il Liechtenstein. È accordo che segue quello siglato pochi giorni fa con la Svizzera. Intese analoghe peraltro sono state firmate anche con San Marino, con il Lussemburgo, e sembra imminente anche un'intesa con il Principato di Monaco. Siamo alla fine dei paradisi fiscali? Non esattamente. Esattamente, il mondo non è diventato all'improvviso trasparente. Vengono meno, questo sì, i paradisi alle porte di casa, cioè quelli più comodi, più sicuri. Però di zone franche fiscali dove nascondere capitali più o meno illeciti ne restano in abbondanza, dai Caraibi al Centro America. Ma chi detiene illecitamente capitali nei paesi che ora hanno firmato accordi con l'Italia sarà inevitabilmente scoperto. È la voluntary disclosure, vale a dire la procedura per regolarizzare i capitali che stanno all'estero, diventa l'unica via per sanare in extremis queste posizioni. Ovviamente qualcuno potrà scegliere di spostare i propri capitali verso altri paradisi, ma il segnale che i nuovi accordi lanciano è che sì, le attività legali potranno andare nei paesi che ancora lo consentono, ma chi lo farà dovrà accettare un livello di rischio molto elevato, legato anche all'instabilità geopolitica dei nuovi paradisi. E siamo alla cronaca. Claudio Scajola e Gianni De Gennaro sono indagati per la mancanza di protezione a Marco Biagi. Marco Biagi era un riformista, un uomo del dialogo tra governo e patti sociali, uno dei massimi esperti del mercato del lavoro in Italia. Le BR lo attesero a Bologna la sera del 19 marzo del 2002 in via Valdonica, al civico 14 barra A, nel cuore dell'antico ghetto ebraico, a due passi dall'università. Il brigatista Mario Galesi uccise un uomo solo che pedalava con la sua bicicletta dalla stazione ferroviaria alla sua abitazione. I terroristi lo seguirono, lo pedinarono per mesi, annotarono ogni suo spostamento. Gli assassini di Marco Biagi sono stati assicurati alla giustizia, condannati in via definitiva dai tribunali. 13 anni dopo, Claudio Scajola, Gianni De Gennaro, quel tempo ministro dell'interno e capo della polizia, risultano indagati per cooperazione colposa in omicidio colposo per la mancata protezione di Marco Biagi da parte dello Stato. Per Scajola fu superficialità, non dolo. Per gli inquirenti invece Scajola e De Gennaro omettevano di adottare direttamente o di far adottare dagli organi a loro sottoposti in favore del professor Biagi misure idonee a proteggere l'incolumità dall'elevato rischio di subire attentati. Daniele Biacchesi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è anche una notizia di musica, di un lutto nel mondo della musica. È morto all'età di 91 anni il cantante Giacomo Rondinella, che era nato a Messina. Già nel 1945 partecipa alla rivista Imputati, Alziamoci, di Michele Galdieri, dove interpreta per la prima volta la canzone Monastero e Santa Chiara, destinata a diventare poi un successo mondiale. Viene richiesto anche per alcuni spettacoli messi in scena da Garinè e Giovannini. Buona parte del suo successo è dovuta anche a Totò, che gli affida molte delle sue canzoni, come la celebre Ma la femmina. Tra poco ci aggiorneremo con il calcio, ma intanto voglio leggere alcuni dei tanti messaggi che già stanno arrivando sulla scelta di Salvini di chiudere per il momento almeno l'alleanza con Berlusconi, che era ormai quasi data per fatta fino a qualche settimana fa. Che ne pensate di questa mossa di Salvini, che tra poco giudicherà anche Totti, consigliere politico di Forza Italia? Allora, Adriana scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: lo psiconano è passato di moda. Insomma, così, psiconano come lo chiama qualcuno. Paolo Gilardini: vincente questa mossa per rimanere all'opposizione 30 anni, quindi evidentemente una risposta ironica, dice non è una mossa vincente. Alberto: Salvini ha fatto una scelta oclocratica, per usare un termine di Mario Capanna, cioè di potere delle masse popolari. Non so se Salvini l'ha fatto in questo senso. Comunque Wally dice: in realtà sono tutte schermaglie, non gli dà molto affidamento a questa, secondo lui, finte distanze che si creano. Andrea: attenzione a Salvini, anche lui si chiama Matteo, mentre lui si chiama Dario Ricci, se non sbaglio. Dario? Sì, confermo. Confermo il nome, l'identità. Senti, in Europa League varie partite che sono state alle 19, altre iniziano alle 21, tra cui sappiamo quella più nell'occhio del ciclone è il ritorno di Roma Feyenoord. Ci aggiorni un po' su tutte? Sì, direi innanzitutto sgombriamo appunto il fatto, sembra tutto a posto a Rotterdam, ma so che ora approfondirete meglio il tema. Sì. Siamo, per quanto riguarda le partite delle 21, sono tutte e tre le italiane ancora ferme sullo 0-0, cioè sia Atletico Bilbao Torino, che partono dal 2-2 dell'andata a Torino, quindi i Granata sono chiamati all'impresa, sia appunto Feyenoord Roma, si parte dall'1-1 dell'Olimpico, sia il Napoli, che di fatto però è già qualificato perché ha vinto in Turchia contro il Trabzonspor per 4-0. Intanto, Roberta, abbiamo però incamerato due importanti qualificazioni, quella della Fiorentina che ha battuto per 2-0 il Tottenham con le reti di Gomez e Salah nella ripresa al Franchi dopo l'1-1 dell'andata, e quella dell'Inter che dopo l'andata per 3-3, il rocambolesco 3-3 a Glasgow, ha battuto per 1-0 a San Siro il Celtic grazie alla rete al 42esimo del secondo tempo di Guarin. Quindi Fiorentina e Inter già qualificate, Torino, Roma devono fare l'impresa, il Napoli di fatto è una formalità e consideriamolo già qualificato almeno di rovesci clamorosi. Mi pare insomma che ci siano per il momento buoni risultati complessivamente. Grazie a Dario Ricci, che sentiamo poi più tardi. Luca da Cagliari intanto scrive al 349-238-6666, questo ve lo ricordo, il numero per i messaggi se volete commentare le notizie, in particolare magari questa scelta di Salvini. Qualcuno dice sono solo schermaglie, altri dicono ma potrebbe essere una scelta che lo fa stare poi all'opposizione 30 anni, quindi perdente. Comunque, dice Luca, invece, parlando delle partite, i tifosi romani impareranno in Olanda come ci si comporta fuori e dentro gli stadi, chissà. Vedremo, capiremo anche come si evolve la situazione, per ora appunto sembra abbastanza tranquilla. Ci sono aggiornamenti per chi viaggia dopo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Allora riprendiamo le notizie più importanti. Intanto vi dico appunto, potete continuare a mandare i messaggi, fare le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte su Salvini, che pare rompere la possibile alleanza, la rinascente alleanza con Berlusconi. Che mossa è secondo voi, che tipo di strategia è quella di Salvini in vista poi delle regionali che ci dovrebbero essere a breve in primavera? Oppure i messaggi al 349-238-6666. Ripetiamo allora quali sono le notizie più importanti. Nella politica, tra l'altro, Bersani che dice non sono un figurante, quindi ancora Maretta, diciamo così, dentro il PD, Renzi no a vecchi caminetti, e Bersani dice è incostituzionale il Jobs Act e domani non sarò alla riunione del PD, eh? Quindi c'è questa notizia. E Salvini intanto che chiude Forza Italia, come dicevo, mentre Grillo e Casaleggio sono stati da Mattarella. Il Presidente del Consiglio su RaiWay dice un'operazione di mercato, lo Stato manterrà comunque il 51%, svelata l'identità di Jihadi John, il boia che ha ucciso tanti ostaggi nei video, è di Londra, sono intanto stati uccisi 15 dei cristiani rapiti in Siria. Scajola e De Gennaro indagati per la scorta revocata a Biagi. E poi l'Associazione Nazionale dei Magistrati all'attacco ancora sulla legge per la responsabilità dei giudici, che dicono è per normalizzarci. E poi passano Fiorentina e Inter per quanto riguarda l'Europa League. In campo c'è Roma-Napoli, ci sono Roma-Napoli e Torino, tensioni a Rotterdam, adesso cercheremo di capire. Poi l'influenza, questa influenza cattiva, 5 milioni di italiani a letto in una stagione pesante. Allora, dicevamo serata di Europa League, tra le partite c'è anche quella che da giorni suscita un po' di preoccupazione, è Feyenoord-Roma, ovvero il ritorno di quella partita attendendo la quale gli hooligans olandesi del Feyenoord hanno devastato, vi ricordate giorni fa, Piazza di Spagna a Roma, hanno danneggiato la Fontana del Bernini, la Barcaccia. Ora c'è la partita di ritorno che si gioca a Rotterdam in Olanda, e lì c'è il nostro Pierluigi Pardo, che è a Rotterdam per la telecronaca, ma che voi, quando vi manca, potete sentirlo tutti i giorni a tutti i convocati con Carlo Genta. Ciao, sì, Pierluigi. Sì, per quanto riguarda il pomeriggio diciamo che possiamo ritenersi piuttosto soddisfatti, nel senso che non ci sono da segnalare episodi gravi come purtroppo invece era successo all'andata. C'erano un paio di gialli, il primo è legato al fermo di 83 tifosi della Roma che poi sono stati rilassati, in questo momento sono nel settore ospiti dello stadio del Cuip, che sono stati fermati praticamente sotto bordo dal loro aereo, hanno denunciato insomma di aver ricevuto attenzioni non troppo simpatiche della polizia olandese, sono stati portati e perquisiti sotto la pioggia nelle campagne non lontane da Rotterdam, sono stati trattenuti in questura non distante dal De Kuip per qualche ora, però poi sono stati rilasciati cantando fra l'altro alleluia un coro da chiesa, insomma, perché evidentemente si legava alla loro uscita dalla questura di Rotterdam. E poi c'è una seconda notizia, comunicato dalla polizia locale, che parla di 18 arresti, 17 olandesi e un italiano, ma la Digos ha smentito, quindi qui il giallo continua, adesso i tifosi della Roma sono ovviamente dentro lo stadio, l'altro momento caldo sarà il momento del debutto, ma fino a questo momento credo che si possa essere piuttosto soddisfatti dell'andamento della situazione, al di là ovviamente tutte le valutazioni sullo stato di diritto e sulle perquisizioni alle quali sono stati sottoposti questi 83 tifosi della Roma. Beh, speriamo che continui così, Pierluigi. Tra l'altro tu a Rotterdam l'atmosfera generale qual è? Che hai trovato? Ma si sta abbastanza, ieri molto tranquillo, oggi si sta piuttosto militarizzata, i romanisti, il grosso dei romanisti ieri sera era ancora ad Amsterdam, insomma nulla di clamoroso da segnalare, una fan zone che potrebbe diventare magari una buona idea per il futuro in Italia, perché è un luogo dove poter mandare i tifosi magari lontani dal centro cittadino e ben sorvegliati, evitando che, o perlomeno sconsigliando l'arrivo nelle grandi piazze turistiche del nostro paese. Ecco, se le cose funzionano speriamo che prendano esempio qui da noi poi per gestire queste situazioni. Speriamo che fini tutto liscio anche a fine partita. Grazie Pierluigi Pardo, buona continuazione. Grazie. A te, ciao Pierluigi. Ciao. E adesso possiamo occuparci invece di politica, non è solo oggi il giorno in cui Grillo e Casaleggio sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella, che è una notizia visto che comunque il Movimento 5 Stelle non l'aveva votato, ed è una notizia anche che poi sul blog il Movimento 5 Stelle abbia parlato di un incontro cordiale e costruttivo. Questo però è anche il giorno in cui il rinascente connubio tra Forza Italia e Lega Nord, vi dicevo, vi ricordate che fino a qualche settimana fa sembrava fosse fatta ormai questa alleanza, invece a gelare questa possibile riunione con Forza Italia oggi è stato il segretario della Lega Matteo Salvini, che nel corso del suo tour in Toscana in vista delle elezioni regionali ha detto: ad oggi con Berlusconi non c'è un accordo sul piano politico nazionale perché a Bruxelles sediamo su banchi diversi. Lui difende l'euro, che noi riteniamo una moneta sbagliata. Lui è insieme alla Merkel, noi alla Le Pen. Abbiamo una visione d'Italia e di Europa completamente diversa. Così ha detto in modo netto Salvini. Salvini, che in questi giorni, lo sapete, va avanti come un panzer. Ha già lanciato la minaccia di una scomunica al sindaco di Verona, che è segretario della Liga Veneta, Tosi, avvertendolo che chi ostacola in qualche modo la rielezione di Zaia al governo del Veneto è fuori dalla Lega. Allora, poco fa, prima che prendesse un aereo, ho intercettato Giovanni Toti, che è consigliere politico di Forza Italia ed europarlamentare, e che ha replicato, insomma, alle dichiarazioni oggi di Salvini. Sentiamolo. Quindi questa alleanza che si stava ricreando improvvisamente si blocca? Ma ricordo sommessamente al segretario Salvini che Forza Italia e Lega Nord hanno governato insieme gli ultimi 20 anni, stando su banchi diversi del Parlamento europeo da sempre. La Lega non ha mai aderito con nessuno dei suoi segretari federali, men che meno con Bossi, al Partito Popolare Europeo di cui facciamo parte noi. Ma questo non ci ha impedito di restare uniti in Italia per impedire alla sinistra di vincere costantemente. Quindi io credo che la politica che oggi sta costruendo Matteo Salvini, ovvero quello di cercare di rafforzare il proprio partito a spese di tutto il resto del centrodestra, cioè costruire o cercare di costruire un suo successo sulle macerie del centrodestra, penalizzerà anche la Lega e anche gli elettori della Lega, che verranno marginalizzati totalmente dalla vita politica e quindi saranno completamente ininfluenti. Vorrei dire che la Lega più forte, stando ai sondaggi, poi tutti da verificare quando gli italiani andranno al voto, la Lega più forte di tutti i tempi rischia, ha già perso il Piemonte, rischia di perdere così anche il Veneto, mette in seria difficoltà l'amministrazione della Lombardia, prima regione d'Italia per abitanti e PIL, mentre la Lega di Bossi con il 4% esprimeva politiche nazionali con numerosi ministri e controllava 3 regioni al nord. Se uno fa politica per cercare di incidere sulla realtà, cerca delle alleanze per cercare di vincere e far prevalere le proprie idee, le proprie ricette, e le ricette del centrodestra sono meglio di quelle del centrosinistra. Se uno cerca in politica solamente un'affermazione di narcisismo individuale o di narcisismo di partito, finisce per condannarsi da solo all'emarginazione. Io spero che la Lega, al netto della propaganda di queste ore, torni a ragionare seriamente, anche perché qualcuno mi deve spiegare per quale ragione oggi, mentre parliamo, il governatore Zaia sta governando il Veneto e Salvini ne parla come di un'esperienza di gran buon governo, con una coalizione che comprende la Forza Italia, il Nuovo Centrodestra, l'UDC, con numerosi membri di giunta e addirittura un vicepresidente, espressione dei centristi, e tutta questa ricetta elogiata da Salvini domani non dovrebbe più andare bene agli elettori veneti. Giovanni Toti, quindi lei parla più di operazioni da parte di Salvini narcisistiche e anche un po' autolesioniste, dalle previsioni che le fa lei di quello che potrebbe essere poi il corso della Lega Nord. È possibile che sia invece una mossa da parte di Salvini per spingervi a mollare il Nuovo Centrodestra, perché lui dice che con Alfano non vuole avere niente a che fare? Guardi, io a me non ho particolari simpatie verso gli altri partiti, salvo che quello in cui milito io, che è Forza Italia, e il presidente Berlusconi. Io dico una cosa molto chiara: il centrodestra, se vuole tornare a essere vincente e dunque costruire una vera alternativa al governo Renzi, cosa che Salvini a parole dice di voler fare, deve restare unito, perché i numeri ci dicono e la storia ci dice che il centrodestra unito in questo paese è maggioranza e il centrodestra diviso ha sempre perduto. Siccome il mio obiettivo è quello di cambiare un governo, quello di Renzi, che sta facendo male in economia, male in politica estera, male sul fronte della sicurezza, male sul fronte del terrorismo, male sul fronte dell'immigrazione, io vorrei poterlo mandare a casa. Per mandarlo a casa dobbiamo trovare il modo di stare insieme. Siccome le nostre ricette per il paese non divergono in modo sostanziale, anzi spesso sono le stesse, trovo che chi si sottrae a questa cosa lo faccia con una certa dose di autolesionismo e con una certa dose di narcisismo, altrimenti si trova il modo di stare tutti insieme. Capisco che oggi le posizioni sono diverse, ma la politica è anche la fatica di trovare un compromesso accettabile per i nostri elettori. Per i nostri elettori certamente non è accettabile che il centrodestra continui a perdere, si continui a dividere e che Renzi continui a governare beatamente senza alcuna difficoltà, anche perché altrimenti devo pensare che Salvini faccia il gioco di Renzi, mentre dice di volerlo mandare a casa, addirittura scende in piazza con le magliette Renzi a casa, poi fa di tutto per garantirgli un pacifico e sereno stazionamento a Palazzo Chigi. E a proposito di creare l'alternativa a Renzi, Salvini sa che ha indetto la manifestazione a Roma, no? Per sabato, dice, per rafforzare il centrodestra e comunque tutte le forze che vogliono mandare a casa Renzi. Voi ci sarete alla manifestazione sabato? No, noi non ci saremo alla manifestazione, molto semplicemente perché è una manifestazione fatta dalla Lega Nord. Non siamo stati coinvolti, abbiamo nostre iniziative, io sarò in Veneto, in Friuli nei prossimi giorni, gli altri dirigenti di Forza Italia saranno in giro per l'Italia a occuparsi di una campagna elettorale che sta già cominciando nelle varie regioni d'Italia, ma è piuttosto inutile andare in piazza a urlare al vento che Renzi deve andare a casa quando costantemente nelle politiche dei fatti e delle alleanze poi si lavora per il contrario, per garantire una stabile e serena permanenza di Renzi a Palazzo Chigi, ponendo veti, ripeto, veti totalmente insensati, dal momento che il governatore Maroni governa la Lombardia con un vicepresidente della Giunta, un presidente del Consiglio regionale, numerosi assessori di Forza Italia, di Nuovo Centrodestra, di UDC, di Fratelli d'Italia. Lo stesso vale per il governatore Zaia. Salvini stesso indica queste due esperienze amministrative, Lombardia e Veneto, come due gran belle esperienze amministrative che hanno fatto molto bene ai cittadini di queste due regioni e che meritano un secondo mandato. Ecco, di fronte a queste dichiarazioni poi come si concilia il fatto di volerle distruggere? Non lo capisco, se non per narcisismo politico individuale. Toti, mi dice soltanto una cosa: se Tosi si sganciasse dalla Lega e si proponesse per il governo del Veneto, lo appoggereste? Le divisioni della Lega non ci riguardano, noi vogliamo Zaia che continui a fare il governatore del Veneto e una coalizione come quella di oggi che continui ad appoggiarla. Questa è la nostra ricetta ed è l'unica ricetta di buonsenso. Su Raffaele Fitto non mi dice niente? Che perdo un aereo. Grazie mille. Ne riparliamo, grazie Giovanni Toti, grazie. E questa, avete sentito, era la replica di Giovanni Toti di Forza Italia, consigliere politico di Berlusconi ed europarlamentare, a quello che oggi ha detto Salvini. Voglio leggere ancora qualcuno dei vostri messaggi a questo proposito, che stanno arrivando sia attraverso i messaggi SMS al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio Cristiano scrive: ora ruggisce Salvini dall'alto della sua torre robusta, i numeri gli danno ragione, Silvio e musicanti sono come sperdute meteore in caduta libera, ma penso che torneranno a turbare con sorrisetti di plastica il primo squillo di elezioni locali, nazionali che siano. Questo è il parere di Cristiano. Poi Luca dice: oggi Salvini dice no, ma domani chissà. Ringrazio per il suo messaggio Clotilde. Albert dice: la Lega non ha bisogno di Forza Italia. Viceversa, sì, sono solo schermaglie per spartirsi le poltrone. E ancora Luca: Salvini oggi dice no, ma non esclude un domani. Sarebbe un tradimento per chi vuole il nuovo. Qualcuno che parla dell'ISIS, altri sempre sulla scelta di Salvini: condivido, una scelta coraggiosa, via il vecchiume, potrebbe esserci una sorpresa. Ci fermiamo per una pausa, voi continuate con le vostre riflessioni, passeremo ad altri temi e continuate anche pure a commentare questo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qua, Roberta Giordano, sempre con voi. Ero intenta a guardare le ultime notizie e anche a leggere i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che gli SMS al 349-238-6666. Ringrazio Luca per il suo messaggio. Poi Andrea da Bologna dice: Toti, melassa, linguaggio da transatlantico, noia mortale. Abbiamo sentito prima, questo è il giudizio di Andrea su quanto detto prima da Giovanni Toti, consigliere politico di Forza Italia, a proposito della presa di distanza di Salvini della Lega Nord da Forza Italia, dicendo: per il momento nessuna alleanza, siamo troppo diversi. Vi riepilogo le notizie di nuovo, se avete acceso in questo momento, ma vi ricordo, c'è chi scrive da Lussemburgo, poco fa mi pare Albert, dall'Austria, dagli Stati Uniti, ascoltano Effetto Notte per rimanere sempre aggiornati, almeno voi che siete in Italia non potete perdere neanche un minuto di Effetto Notte, e quindi se mai aveste acceso la radio in questo momento, ecco le notizie più importanti della giornata. Siria, sono 350 i cristiani rapiti dall'ISIS e sono 15 le vittime, così dice il vescovo locale. Il ministro degli esteri parla di un inaccettabile genocidio, svelata l'identità di Jihadi John, il boia è di Londra. Rai Way, Renzi assicura, il 51% resta pubblico, ma si tratta di un'operazione di mercato. Guerra sulle alleanze nel centrodestra, Salvini chiude a Berlusconi e Toti di Forza Italia, con Effetto Notte, parla, come avete sentito, di mossa autolesionista. Segreto bancario addio, dopo la Svizzera l'Italia firma un accordo anche con il Liechtenstein. Liechtenstein. L'omicidio di Marco Biagi, Scajola e Di Gennaro sono indagati per la scorta revocata al gius lavorista. Brega Massone, il chirurgo degli orrori, condannato definitivamente a 15 anni e mezzo. Lutto nella musica, a 91 anni è morto Giacomo Rondinella, diventò famoso dando voce alla canzone di Totò ma la femmina. Per il calcio, tensione a Rotterdam per la partita di ritorno Feyenoord-Roma, anche se pare che sia poi andato tutto meglio del previsto. Ci sono in campo per Europa League Roma, Torino e Napoli. Intanto Fiorentina e Inter si sono qualificati, Fiorentina battendo 2-0 il Tottenham, l'Inter ha battuto 1-0 il Celtic. Vediamo anche gli altri aggiornamenti delle partite in corso. Allora, Athletic Bilbao-Torino 0-1 per il Bilbao, e poi Feyenoord-Roma prosegue 0-0, Napoli-Trabzonspor 1-0. Il tema ora è quello del terrorismo islamico. Una delle notizie di oggi, vi dicevo, è che è stata svelata l'identità del boia dell'ISIS, quello della perfetta pronuncia inglese, quello che soprattutto nei primi video prodotti dal sedicente Stato Islamico sgozzava di volta in volta prigionieri che erano in ginocchio con una tuta arancione davanti a lui, giornalisti, operatori umanitari, eccetera. Ha 27 anni, viene da Londra, West London, ma è nato in Kuwait, laureato in informatica, viene da una famiglia agiata. I vicini, tra l'altro, hanno detto alle forze dell'ordine che la famiglia è fatta di persone tranquille, carine, hanno detto addirittura. Questo l'ha rivelato la BBC citando Scotland Yard. Il terrorista soprannominato Jihadi John si chiama in realtà Mohamed Mwazi. E il vero nome era già noto alle autorità britanniche in realtà da tempo, ma avevano deciso di non rivelarlo per non compromettere le indagini. E Wazi era apparso per la prima volta nel video della decapitazione del giornalista americano James Foley il 19 agosto scorso, poi in quelli dell'uccisione di Steven Stofflof, David Haines, 22 soldati siriani, e poi il giornalista giapponese Goto. Dopo vari viaggi, si è laureato in informatica a Londra, dopo vari viaggi era ritornato nella capitale inglese nel 2010, fu arrestato, pensate, con l'accusa di terrorismo, fu inserito in una blacklist, in una lista nera, non gli fu permesso di lasciare il paese, ci riuscì lo stesso due anni dopo, nel 2012, quando raggiunse la Siria per unirsi all'ISIS. Come è possibile, ci si può chiedere? Intanto saluto Vittorio Emanuele Parsi, ciao Vittorio Emanuele. Ciao Roberta. Esperto di geopolitica, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, editorialista del Sole 24 Ore. Partiamo da questo intanto, Vittorio Emanuele. Intanto questa è l'identità di quello che all'inizio di questi video parlava, e parlava con questo inglese perfetto, tant'è che si era detto appunto è sicuramente un cittadino britannico. Com'è che era finito nella blacklist, era stato arrestato, e poi questo è successo a molti altri, lo sappiamo, anche a quelli che poi a Parigi hanno fatto la strage a Charlie Hebdo, no? Erano già stati attenzionati, fermati. Si diceva forse non c'è la possibilità, la capacità di stare dietro a tutti? Sono troppi? Beh, se vuoi, perché siamo in stati di diritto, per cui qualcuno finisce nelle blacklist, finisce tra i sospettati, se però nel termine concesso dalle diverse legislazioni non combina qualcosa, scontrate prove, le persone vengono lasciate libere, come è giusto che sia. Senti, invece, per quello che sta succedendo in Siria, no? La Siria ogni tanto ce la si dimentica, ma è sempre lì inondata dal sangue, e prima sembrava una guerra fratricida, cioè una guerra civile, poi ci sono le incursioni dell'ISIS, sono stati rapiti almeno 350 cristiani, 15 secondo le notizie di oggi sono già stati uccisi, e qualcuno parla addirittura di una possibile esecuzione di massa domani. Beh, dalla Siria abbiamo sempre il dramma dei numeri che non sappiamo se sono sinceri, se sono puliti, però in ogni caso è chiaro che quello che succede è molto grave, anche perché da quando non partirà l'offensiva di terra sarà impossibile riuscire ad arrivare a una soluzione. Quindi se non c'è l'offensiva di terra, ma da parte di chi? Oggi per esempio Renzi ha incontrato il segretario generale della NATO, gli ha detto che la NATO deve dare un sostegno anche in Libia, perché non può essere un problema solo dei paesi vicini. Stoltenberg ha detto senz'altro ci sarà il nostro sostegno, non è previsto per ora nessun intervento al momento, e quindi se nessuno si muove né in Siria né in Libia, Quale no, può però essere? È diverso, Roberta, nel senso che in Siria e in Iraq l'offensiva è questione di tempo, nel senso che gli americani hanno già accumulato truppe in Kuwait per sostenere l'esercito iracheno e in qualche modo questo comporterà un'offensiva effettiva. Quello della Libia è un discorso molto diverso perché non dobbiamo dimenticarci che la creazione dell'aspettativa su un'azione militare in Libia è frutto principalmente delle dichiarazioni del governo italiano, che prima ha dichiarato che era pronto a partire e poi ha dichiarato che era d'accordo nello smentirsi. Ma adesso invece, questo per quanto riguarda la Libia, per quanto riguarda invece la Siria, che cosa si sta facendo? Stoltenberg tra l'altro ha detto che c'è sempre anche la minaccia di Putin da est, che non è soltanto una questione che riguarda l'Ucraina, che la situazione è particolarmente grave, ma è anche Putin, se non sbaglio, sulla Siria continua ad avere un atteggiamento così di chi prende tempo, di chi non vuole intervenire, prendere posizione contro. Nel senso che dalla prospettiva italiana facciamo fatica a cogliere il fatto che per i grandi paesi nostri alleati, quindi non solo gli Stati Uniti ma anche l'Inghilterra, la Francia e soprattutto la Germania, la questione della sicurezza principale in questo momento non è la crisi ucraina ma è la crisi con la Russia che si manifesta in Ucraina, e questo è il numero uno dell'agenda internazionale. Al secondo posto c'è la questione iracheno-siriana. Non c'è un trade-off necessario tra le due crisi, nel senso che i russi non stanno in questo momento giocando una partita di scambio, perché è vero che i russi sostengono Assad, ma è anche altrettanto vero che i paesi occidentali sostanzialmente hanno accantonato a tempo indeterminato la caduta del regime di Assad. La Turchia è molto interessata a questo, l'Arabia Saudita, ma non i paesi occidentali. Per cui su questo direi che dobbiamo essere molto precisi, cioè, così come in qualche modo dobbiamo sottovalutare l'opposizione tra noi e la Russia in questo momento sul fronte ucraino, però onestamente sulla questione ISIS i russi si stanno comportando in maniera corretta, anche perché hanno molta più paura di quanto non sostengono pubblicamente di un possibile contagio. Tra l'altro, adesso che ci sono stati rapiti addirittura 350, questi sarebbero i numeri, abbiamo detto, però stiamo attenti, i numeri sono sempre così relativi, però significa che gli integralisti, i terroristi dell'ISIS vogliono anche dare un significato proprio anche strettamente di guerra di religione, che quello non è, perché è una cosa molto più ampia, più complessa, però hanno rapito proprio molte decine di cristiani e ne hanno già uccisi 15 oggi. La dimensione religiosa per l'ISIS non è ancillare, è anzi centrale. Per loro si tratta di purificare delle regioni che altrimenti sarebbero, come posso dirvi, ibridate da presenze che per loro sono di infedeli. Questo non dobbiamo confondere le cose, nel senso per noi, cresciuti nella cultura laica occidentale illuminista e via discorrendo, la religione è un aspetto della nostra vita, per molti di noi un aspetto marginale, onestamente. Per quelli che credono nelle teorie che l'ISIS propaga, la religione è un punto centrale. Quindi c'è una relazione un po' opposta rispetto a quello che noi facciamo tra politica e religione, nel loro caso. Detto questo, è chiaro che il loro punto di vista è una distorsione di quella che è la comune accezione nel mondo islamico della religione musulmana. Vittorio Emanuele, poi vedremo che cosa accadrà domani, se sono fonti attendibili quelle che parlavano addirittura di un'esecuzione di massa in una moschea in Siria. Ci si chiede veramente come si possa fermare quello che Gentiloni ha definito genocidio oggi. Comunque insomma avremo modo di riparlarne, perché è un argomento che è sempre naturalmente in primissimo piano. Grazie Vittorio Emanuele Parsi. Ciao Roberta, grazie a voi. Ciao Vittorio Emanuele. Aggiorniamo chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccole le notizie, vediamo se ci sono degli aggiornamenti. Un Oscar sparito nel nulla successo, adesso non vedo bene quale sia, questo è il titolo, poi guardiamo meglio l'agenzia, ma le altre notizie più importanti sono che Bersani in serata, ex segretario del PD, ha detto non sono un figurante, il Jobs Act è incostituzionale e domani non sarò alla riunione del PD, Renzi dice no a vecchi caminetti. Intanto Salvini chiude a Forza Italia, avete sentito la replica di Toti qui a Effetto Notte, poi Grillo e Casaleggio oggi sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Mattarella. Renzi su Rai Way dice un'operazione di mercato, anche se lo Stato manterrà comunque il 51% delle azioni. Svelata l'identità di Jihad John, ne abbiamo appena parlato, il boia è di Londra, intanto sono stati uccisi oggi 15 cristiani, delle decine di cristiani rapiti, sono stati distrutti i monumenti a Mosul, anche l'ISIS ha questo terribile vizio di distruggere gli antichi monumenti. Scajola e De Gennaro indagati per la scorta revocata a Marco Biagi, omissioni sulla sicurezza, sono indagati per cooperazione in omicidio colposo. E poi passano Fiorentina-Inter per l'Europa League, in campo Roma, Napoli e Torino, la tensione a Rotterdam si è molto placata, vediamo se ci sono degli aggiornamenti sulle partite, su queste ultime partite in corso, se ci sono dei cambiamenti. Prima Feyenoord-Roma sono sempre 0-0 e anche Atleti Bilbao-Torino 0-1, Napoli-Trabzonspor 1-0, no, non è cambiato niente. Parliamo di Europa. Europa 24 notte. Il tema è quello delle quote latte. L'Italia è deferita alla Corte di Giustizia Europea per non aver assolto adeguatamente al recupero di 1.752 milioni di euro dai produttori che avevano superato i tetti stabiliti per il periodo tra il 1995 e il 2009. Per il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, il leader della Lega Salvini dovrebbe indossare una felpa con scritto scusa. L'Italia finisce nel pacchetto mensile di infrazioni della Commissione europea. L'esecutivo UE ha deciso di deferire il nostro paese alla Corte di Giustizia per il mancato recupero di 1,75 miliardi di prelievi dagli allevatori per l'eccesso di produzione rispetto alle quote latte tra il 1995 e il 2009. Una decisione che rischia di costare alle casse dello Stato centinaia di milioni di euro, oltre ai 4 miliardi e mezzo già pagati negli anni. A spiegarlo è il ministro per le politiche agricole Maurizio Martina, che ricorda come la notizia del deferimento arrivi proprio mentre il governo ha iniziato a inviare le 1.455 cartelle esattoriali per recuperare i 422 milioni di euro di multe già anticipate dallo Stato. Noi dobbiamo farla finita con questo cinema. Noi abbiamo fatto quello che non si era fatto. Nella legge di stabilità c'è una norma che non si era mai vista, che chiarisce precisamente chi deve operativamente gestire questa fase. Nelle prossime settimane, relativamente a quei 1.000, le cartelle partono. Certo che anch'io preferirei dire che non si paga, ma rispetto a questa storia io metto volentieri la faccia. Bruxelles aveva già inviato una lettera di messa in mora sulla vicenda del recupero dei prelievi nel giugno 2013, poi un parere motivato nel luglio dell'anno scorso. Ora il deferimento ufficiale davanti ai giudici UE, visto che secondo la Commissione l'Italia non ha mostrato alcun progresso significativo nel recupero. Noi ovviamente affronteremo anche questa vicenda, anche perché in questi 10 mesi abbiamo fatto quello che non si è fatto in 10 anni dal punto di vista della correttezza, del metodo e dei tempi, anche su una vicenda così spinosa come il mancato pagamento delle multe. Secondo me è inaccettabile che per 1.000 allevatori disonesti ci vadano di mezzo 34.000 allevatori onesti e un intero paese. Vi voglio ricordare che noi queste multe come cittadini italiani le abbiamo già pagate. Il ministro Martina attribuisce le responsabilità alla Lega Nord, visto che nel 2009 fu l'allora ministro del Carroccio Luca Zaia a rallentare le riscossioni. Una grana, secondo Martina, che invita il leader della Lega ed europarlamentare Matteo Salvini a chiedere scusa. Sulle quote latte si conferma che le bugie che in questi anni la Lega in particolare ha tentato su questa vicenda stanno creando un sacco di problemi a questo paese. E dico anche al signor Salvini, ripensi a quando stava sotto le sedi delle istituzioni a spiegare a quegli allevatori che non dovevano pagare. Ecco, queste cose alla fine sono un grande danno per questo paese e noi siamo ancora qui a gestire questa vicenda. E dico anche al signor Salvini, si mettesse una felpa con scritto scusa. Il sistema delle quote fu istituito nel 1984 per evitare distorsioni del mercato ed è fondato su quote di produzione nazionale. Quando uno Stato membro eccede la propria quota, i produttori responsabili devono essere sanzionati. Per la Commissione europea, su un importo complessivo di multe per 2.305 miliardi, circa 1.752 non sono stati ancora recuperati dalle autorità italiane. Ma, si legge nel testo, parte di questo importo sembra considerato perso o rientra in un piano a tappe di 14 anni. Dunque, la somma finale sarebbe pari a 1,343 miliardi di euro. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Rieccoci insieme, stavo guardando una delle notizie che sono uscite proprio in tarda serata, mentre stava iniziando, anzi dopo che è iniziato Effetto Notte, quella che riguarda Briga Massone, che è stata confermata la condanna a 15 anni e mezzo, è stata confermata dalla Cassazione per Pierpaolo Briga Massone, l'ex primario di chirurgia toracica della clinica milanese Santa Rita, in relazione all'accusa di lesioni nei confronti di circa un'ottantina di pazienti, di varie operazioni fatte per nulla e di truffa al Servizio Sanitario Nazionale. Per la vicenda della clinica degli orrori, Briga Massone sta già scontando la condanna all'ergastolo per omicidio volontario di 4 pazienti. Era questa la notizia. Mentre l'altra, quella che riguardava l'Oscar, si parla di un furto degno di Arsenio Lupin, quello messo a segno a Hollywood. È infatti sparito nel nulla lo spettacolare abito di perle indossato da Lupita Nyong'o la notte degli Oscar. A rivelarlo è il sito di MZ. Il vestito firmato Calvin Klein è realizzato con oltre 6.000 perle a un valore di 150.000 dollari. Voi pensate, quando siete usciti con un vestito da 150.000 dollari, qualcuno vuole risentire un estratto di Toti che ha replicato questa sera qui Effetto Notte a Salvini, che ha preso le distanze da Berlusconi per una possibile alleanza. Sentiamo proprio una piccola parte. Ricordo sommessamente al segretario Salvini che Forza Italia e Lega Nord hanno governato insieme gli ultimi 20 anni, stando su banchi diversi del Parlamento europeo da sempre. La Lega non ha mai aderito con nessuno dei suoi segretari federali, men che meno con Bossi, al Partito Popolare Europeo di cui facciamo parte noi. Ma questo non ci ha impedito di restare uniti in Italia per impedire alla sinistra di vincere costantemente. Quindi io credo che la politica che oggi sta costruendo Matteo Salvini, ovvero quello di cercare di rafforzare il proprio partito a spese di tutto il resto del centrodestra, cioè costruire o cercare di costruire un suo successo sulle macerie del centrodestra, penalizzerà anche la Lega e anche gli elettori della Lega, che verranno marginalizzati totalmente dalla vita politica e quindi saranno completamente ininfluenti. Vorrei dire che la Lega più forte, stando ai sondaggi, poi tutti da verificare quando gli italiani andranno al voto, la Lega più forte di tutti i tempi rischia, ha già perso il Piemonte, rischia di perdere così anche il Veneto, mette in seria difficoltà l'amministrazione della Lombardia, prima regione d'Italia per abitanti e PIL, mentre la Lega di Bossi con il 4% esprimeva politiche nazionali con numerosi ministri e controllava 3 regioni al nord. Se uno fa politica per cercare di incidere sulla realtà, cerca delle alleanze per cercare di vincere e far prevalere le proprie idee, le proprie ricette, e le ricette del centrodestra sono meglio di quelle del centrosinistra. Se uno cerca in politica solamente un'affermazione di narcisismo individuale o di narcisismo di partito, finisce per condannarsi da solo all'emarginazione. Io spero che la Lega, al netto della propaganda di queste ore, torni a ragionare seriamente. E adesso invece torniamo a ragionare di calcio. Non mi sembra di vedere aggiornamenti preoccupanti sulla partita Roma-Feyenoord che si sta giocando a Rotterdam, visto che il ritorno di quella partita attendendo la quale gli hooligans olandesi fecero molti disastri a Roma. Dario Ricci, tu hai visto qualcosa di nuovo? No, direi di no dal punto di vista dell'ordine pubblico, anche se ci sono stati dei cori razzisti da parte dei sostenitori giallorossi, e l'arbitro ha interrotto per alcuni minuti la gara e minacciato una sospensione nel caso questi cori dovessero ripetersi. Dal punto di vista calcistico, importante il fatto che la Roma è in vantaggio dal 45esimo del primo tempo. In questi istanti si sta giocando il quarto ed ultimo minuto di recupero della prima frazione di gioco. La Roma è in vantaggio grazie alla rete di Ljajic proprio allo scadere al 45esimo, bravissimo l'attaccante serbo a infilare con un colpo sotto misura. In vantaggio anche il Torino per 2-1 a Bilbao nel segno di Maxi Lopez, 1-0 anche del Napoli su Trabzonspor, ma lo ricordavamo in precedenza, Roberta, il Napoli parte dal 4-0 in Turchia, quindi qualificazione ormai al sicuro, ma siamo a questo punto vicinissimo a una straordinaria plane, visto che Inter e Fiorentina hanno già guadagnato la qualificazione. Finisce in questo istante il primo tempo al De Kuip, Feyenoord 0 Roma 1 grazie alla rete di Ljajic al 45esimo di gioco. Mi ricordi e ci ricordi, Dario Ricci, com'era andata invece all'andata questa di Roma Feyenoord? 1-1, 1-1 Roma Feyenoord, mentre il Torino aveva concluso la sua gara all'Olimpico sul 2-2 contro l'Athletic Bilbao, quindi in questo caso, come già dicevamo, risultati estremamente favorevoli per le italiane, ma c'è ancora tutto un tempo e chissà, forse anche di più, Roberta, in caso di supplementari da giocare. Come si pronuncia la squadra che sta giocando contro il Napoli? Trabzonspor. Se vuoi provo a dirtelo anche al contrario, ma sì, sì, è un esercizio di stile, e qui adesso mi sfidi, adesso mi fai venire proprio gusto di dirtelo al contrario, guarda, Robsnobzbarratr. Vabbè, hai cercato di millantare, ma ce l'hai fatta, mi sembra di aver capito. Prossimo collegamento lo leggo in diagonale. Molto bene, grazie Dario Ricci, in diagonale da destra a sinistra, ciao. Sinistra a destra. E a questo punto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, leggo ancora il messaggio di Maria Laura, 41 da Roma, 41 anni, ci tiene a dire l'età, una donna che ci tiene a dire l'età. Giacomo Rondinella, che è morto oggi a 91 anni, cioè era già famoso, ha avuto quale coprotagonista Virna Lisi al suo esordio. Abbiamo ricordato anche questo, tra poco.